Mix 24, la storia. Ospedale di Lambaréné, Gabon, domenica 5 settembre 1965. Le note di Bach si fondono con i rumori della giungla equatoriale. Una folla silenziosa rende omaggio per l'ultima volta ad Albert Schweitzer, una delle figure che ha segnato il XX secolo. Mio padre era un uomo affascinante. Era un filosofo, era un teologo ed era un medico nella giungla. Il mondo intero è in lutto. La stampa internazionale celebra quello che Albert Einstein ha definito l'uomo più buono del secolo. Il musicista prediletto della regina Elisabetta del Belgio, l'amico dei Rockefeller e dei Kennedy, ma anche l'apostolo dei poveri, dei bisognosi, il medico dei lebbrosi. Indigeni, capi di Stato, infermiere, medici che hanno lavorato con lui piangono stretti l'uno all'altro il Grand Docteur. Lo stregone bianco, arrivato in quel luogo dimenticato da Dio più di 50 anni prima, dopo essersi lasciato alle spalle la famiglia, la carriera, la sua patria. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di Albert Schweitzer, una delle figure più straordinarie del XX secolo, un medico, un teologo, un filosofo, un predicatore, uno dei massimi interpreti della musica di Bach, un uomo che a 30 anni ha rinunciato a tutto per dedicarsi ai poveri e ai malati in un angolo sperduto della giungla africana. Questa è la storia di un uomo e del suo sogno, trasformato in realtà. Un piccolo ospedale nella foresta equatoriale del Gabon, un ospedale molto, molto speciale. Non serviva un ospedale a 6 piani, ma serviva invece un villaggio. Tante case e tanta gente confusa insieme. Una società di malati come ci sono le società dei sani. Qui si vive dentro la natura e grazie ad essa. Così rispondeva Schweitzer intervistato da Sergio Zavoli nel 1963. L'ospedale di Lambaréné è l'opera di un visionario, di un uomo che ha dedicato la vita al prossimo e che ha attraversato il secolo breve, l'epoca dei totalitarismi e delle armi nucleari, rifiutando il progresso e la tecnologia per costruire il suo sogno. Un'etica nuova dunque, contro tutto e contro tutti. E questo è il sogno di Albert Schweitzer. Ma chi era per davvero? Un pazzo, un visionario, un idealista romantico? Oppure, come lo definisce Einstein, l'uomo più buono del secolo? E soprattutto, come e perché ha deciso di lasciare tutto per andare in Africa? A raccontarlo è lui stesso nei suoi diari, nelle sue lettere, nei suoi scritti e nelle sue parole c'è il racconto di una promessa. All'età di 21 anni decisi che fino a 30 mi sarei dedicato al ministero pastorale, alla scienza e alla musica. Poi avrei intrapreso un servizio diretto all'uomo. Mi riusciva incomprensibile che io potessi vivere una vita fortunata mentre vedevo intorno a me così tanti uomini afflitti da ansie e dolori. Mi aggrediva il pensiero che questa fortuna non fosse una cosa ovvia, ma che dovessi dare qualcosa in cambio. Quanti giovani idealisti vorrebbero cambiare il mondo senza poi averne effettivamente il coraggio? Mio padre invece a 30 anni era all'apice del successo. Fin da bambino aveva vissuto una condizione agiata, ma ha mantenuto la sua promessa per tutta la vita. Avete sentito Rena, figlia di Schweitzer. A colpire la sua fantasia di bambino è un monumento scolpito da Bartholdi, autore anche della Statua della Libertà di New York. A Colmar c'era un famoso monumento all'ammiraglio Brouat. Sul basamento vi era scolpito il volto triste e meditativo di un negro. Ogni volta che lo vedevo, non potevo fare a meno di pensare all'arretratezza e alla miseria del continente africano. Fu quel volto a indirizzare i miei pensieri di bambino verso l'Africa. Nel Novembre 1904, Schweitzer riceve un opuscolo della Società Missionaria Protestante di Parigi. In quell'opuscolo c'è il suo destino. Lo sguardo mi cadde su un articolo dal titolo «I bisogni della missione nel Congo». In quell'articolo si lamentava la mancanza di personale per il lavoro della missione nel Gabon, la provincia settentrionale dell'allora colonia francese. È l'epoca del colonialismo. La schiavitù ha lasciato il posto alla penetrazione economica e militare delle grandi potenze europee. L'Africa equatoriale, colonizzata prevalentemente dalla Francia, è terra di conquista per le compagnie di legname ed avventurieri di ogni sorta, ma altrettanto numerose sono le missioni. Strasburgo, 9 luglio 1905. Schweitzer scrive alla Società Missionaria di Parigi. Vi domando se avete bisogno di qualcuno per il Gabon. Fin da bambino ho sognato di mettermi al servizio delle missioni. Ho conosciuto le soddisfazioni del successo, ma tutto questo non mi è bastato. All'età di 29 anni, Schweitzer è già un'autorità riconosciuta in ambito teologico. Dopo essersi laureato contemporaneamente in teologia e in filosofia presso l'Università di Strasburgo, ha ottenuto la cattedra di teologia in quello stesso Ateneo. 4 anni più tardi, in qualità di predicatore presso la chiesa di San Nicola, ha assunto la direzione del seminario protestante della città. Ma l'autorità riconosciuta di quel giovane predicatore preoccupa i responsabili della missione legata al governo di Parigi. A parlarcene la sua collaboratrice Sonia Poteau. Ed ecco un pastore liberale che rischia di creare un mucchio di problemi agli altri missionari, perché lui era dottore, professore e tutto il resto. La missione di Parigi si mostrò infastidita dalla possibilità che interferisse con l'opera dei missionari e lui disse: d'accordo, se non posso predicare allora curerò i malati. Mix 24, la storia. Questa notte ho riflettuto ancora una volta. La mia decisione è presa. Niente potrà più cambiarla. Rieccoci a Mix 24. Era Albert Schweitzer, il giovane teologo alle idee molto chiare. E nonostante i missionari francesi neppure rispondano al suo appello di collaborazione in Gabon, Schweitzer prende una decisione che spiazza tutti. È il 1905, a 30 anni. Avevo deciso. Un giorno di ottobre dell'anno 1905, nell'Avenue della Grande Armée, imbucai una mezza dozzina di lettere. Rendevo nota alla mia famiglia e ai miei amici più intimi la decisione di studiare medicina e di recarmi successivamente in Africa come medico. Strasburgo, ottobre 1905. Schweitzer si iscrive alla facoltà di medicina, una matricola nella stessa università in cui è professore di teologia. Quando mi annunciai come studente al professor Felling, allora decano della facoltà di medicina, egli avrebbe preferito spedirmi dai suoi colleghi di psichiatria. È in questo periodo che Schweitzer intensifica la sua relazione con Helene Breslau, una giovane studentessa. Unica tra gli amici di Schweitzer, è lei a sostenerlo e incoraggiarlo nei suoi sforzi. Helene, ho trovato lo scopo della mia vita, i negri del Gabon. Laggiù hanno bisogno soprattutto di un medico. Lascerò ogni altra occupazione e fra 8 anni sarò pronto. Te la senti di aspettarmi per tanto tempo? E specialmente, te la senti di venire a seppellirti con me fra le foreste? Caro Albert, seguirò un corso da infermiera, così non potrai fare a meno di me. Helene voleva vivere accanto a Schweitzer. Era una donna straordinaria, molto intelligente. Insieme potevano parlare e discutere. Si amavano davvero. Mercoledì 18 giugno 1912. Albert ed Helene si sposano nella piccola chiesa di Gunsbach. Pochi mesi dopo, Schweitzer si laurea in medicina con una dissertazione sul caso psichiatrico di Gesù. Un lavoro complesso che attraverso l'indagine psicologica del Messia mira a dimostrarne l'esistenza storica. Ed è quell'uomo che Schweitzer intende seguire. Appena laureato, si prepara a partire per il Gabon. È con la sua attività di organista, una passione che coltiva fin da bambino, che riesce a procurarsi i fondi necessari al viaggio. Quando fui sicuro di avere raccolto tutti i mezzi necessari a fondare un piccolo ospedale, feci la mia offerta definitiva alla Società delle Missioni di Parigi di mettermi a servizio a mie spese come medico nel territorio della missione sul fiume Ogowe e partire dalla loro base di Lambaréné, situata in posizione centrale. A questo punto i missionari di Parigi non possono più rifiutare l'offerta di Schweitzer. Ora Schweitzer non è più un filosofo e un teologo, ma è anche un medico. Ma soprattutto, lo abbiamo detto, Schweitzer è anche un organista, uno dei maggiori interpreti di Bach, e proprio grazie ai proventi dei suoi concerti e del libro che ha scritto sul compositore tedesco, Schweitzer può finanziarsi da solo il viaggio verso il Gabon. È il marzo del 1913. Bordeaux, marzo 1913. Albert Schweitzer prepara meticolosamente il suo viaggio verso l'Ambarené. Per lui è un lavoro nuovo che lo assorbe completamente. Finora ero stato occupato solo dal lavoro intellettuale. Adesso bisognava fare ordinazione dai cataloghi, commissioni tutto il giorno, girare per negozi e cercare merce, verificare consegne e fatture, chiudere casse, compilare con esattezza le liste per la dogana. 70 casse furono chiuse a vite e spedite alla volta di Lambarené. Mercoledì 26 marzo 1913, Schweitzer si imbarca con la moglie sul piroscafo Europa. La loro meta, Port Gentil, sull'isola di Mangy, alla foce del fiume Ongwe. Via via che la nave avanza, si avverte sempre più la vicinanza dell'equatore. Si possono ammirare quei fantasmagorici tramonti così caratteristici del mare equatoriale. Dopo questo tramonto, domani dovremo arrivare a Port Gentil. Siamo in mare da 17 giorni. D'improvviso, Schweitzer ed Helene si trovano immersi in una natura ostile e selvaggia. Percorrono il corso dell'Ogowé a bordo di una piccola imbarcazione, attraversano acque fatte di fango e melma nel labirinto della giungla tropicale, sbigottiti di fronte alla sua immensità, carichi di bagagli e scatole di medicinali. A ogni svolta si aprono nuovi bracci d'acqua, sempre e solo la stessa foresta, la stessa acqua verde. La monotonia accresce a dismisura la forza di questa natura. Mercoledì 16 aprile 1913. All'alba gli Schweitzer raggiungono il villaggio della missione protestante. Dopo quasi un mese di navigazione, prima su un vecchio piroscafo e poi su una piroga, Albert e Helen Schweitzer sono arrivati alla missione di Lambarené, ma il rapporto con i missionari è subito difficile e le 70 casse di medicinali che Schweitzer ha imbarcato a Bordeaux sono ancora in viaggio. Schweitzer, insomma, si trova subito a combattere contro una situazione molto, molto ostile, ma non si arrende. Il vecchio pollaio della missione, una fatiscente baracca di legna e lamiera sulla riva del fiume, sarebbe stata il nostro ambulatorio. Il tetto era squarciato e le pareti sudice. La mattina dopo il nostro arrivo la ripulimmo con una vecchia scopa e un secchio di calce, ma non sarebbe stata pronta prima di qualche giorno. Decisi che nelle prime settimane non avrei curato nessuno, tranne i casi più urgenti. Già dalle prime ore del mattino è chiaro che Schweitzer si illude. Fui circondato da malati. Arrivavano da un raggio di 200-300 chilometri in canoa sul Logowe e dai suoi affluenti. Lebrosi, malarici, colpiti dalla malattia del sonno, dalla febbre gialla, con ulcere tropicali, polmoniti, ernie inguinali. Schweitzer inizia le sue visite all'aperto. Ha con sé soltanto una piccola valigia di primo soccorso. Un bisturi ed alcune bende sono il suo misero armamentario, ma Schweitzer non si arrende. Divide i pazienti contagiosi dagli altri. Con un bastone disegna sulla sabbia della banchina alcuni rettangoli. Gli indigeni vi si distendono come fossero dei letti. La corsia di un ospedale è ancora immaginario, creato dalla disperazione. In quel clima ostile, afoso, che toglie il respiro e non dà tregua, Schweitzer lavora senza fermarsi un attimo. Incide con strumenti rudimentali, sutura le ferite, somministra le poche medicine che ha a disposizione. È un uomo che lotta contro la natura, al limite delle sue possibilità. Come se non bastasse, si aggiungono la superstizione degli indigeni e l'ostilità degli stregoni. Gli stregoni dei villaggi vicini sono i veri signori della vita e della morte. La loro arma è il veleno, che usano con scaltrezza di delinquenti consumati. Lo somministrano attorno agli abitanti dei villaggi per procurarsi ammalati da guarire miracolosamente. I primi 10 giorni sono come un incubo. molti dei suoi pazienti muoiono. Schweitzer è costretto a seppellire lui stesso i cadaveri che gli indigeni ritengono contagiosi. La notte, ombre furtive si muovono tra la fitta vegetazione tropicale. Tra i pazienti serpeggia il terrore. Sono guerrieri della tribù Pawins, tagliatori di teste, che esigono un tributo di sangue dai moribondi. Le urla squarciano il silenzio della notte. Schweitzer è scoraggiato. Si sente impotente, disgustato da quei neri capaci di nutrirsi dei loro simili. Gli indigeni sono ladri, bugiardi, assassini. Ma chi li ha ridotti così? La foresta, gli stregoni, i mercanti di schiavi, non certo la cattiva volontà. Se ce ne andiamo, anche i migliori torneranno ad essere ladri e assassini, perché solo così si può sopravvivere nella giungla del Gabon. Poi finalmente, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, arrivano le 70 casse di medicinali spedite da Bordeaux. Ora Schweitzer può operare. Il suo primo vero intervento chirurgico, un'ernia strozzata. Quando incisi nel ventre gonfio e duro, attorno a me c'era un silenzio mortale. Una barriera di occhi bianchi dalla penombra della capanna scrutava ogni mio gesto. Vi leggevo una decisione precisa. Se col mio coltello avessi ucciso quel negro, avrebbero ucciso anche me. Ma l'operazione andò bene. Ora la barriera di occhi bianchi mi guardava con venerazione. In un batter d'occhio, tra la popolazione, si diffonde la voce dell'arrivo di uno stregone bianco dai grandi poteri. L'Oganga bianco è potente, possiede un coltello che guarisce ogni male. Una folla di indigeni si raduna sulle sponde del fiume. Molti a bordo di piroghe rudimentali risalgono la corrente per arrivare a piedi della collina di Andende. Ancora Sonia Poteau, collaboratrice di Schweitzer. Era un grande stregone. Quegli indigeni non avevano mai visto nulla del genere. Quando si risvegliavano dopo l'anestesia completamente guariti, dicevano: «Il dottore mi ha ucciso e mi ha risvegliato dalla morte». Nemmeno lo stregone del villaggio poteva farlo, ma quello Ganga bianco ci riusciva. Per gli indigeni, insomma, Schweitzer diventa lo Ganga bianco, lo stregone arrivato da lontano, capace di salvarli dalla morte. Nonostante le mille difficoltà, Schweitzer sembra finalmente aver trovato il suo destino. Ma le Grand Docteur ora ha un nuovo problema. Schweitzer infatti è alsaziano, dunque è un cittadino tedesco, mentre il Gabon è una colonia francese. E il 3 agosto del 1914 ha inizio la Prima Guerra Mondiale. 3 agosto 1914 ha inizio la Prima Guerra Mondiale. La terra natale di Schweitzer è al centro di una disputa che mieterà centinaia di migliaia di vittime. Schweitzer è nato tra le colline dell'Alsazia, che fa parte del reazionario Reich del Kaiser Guglielmo II. Una terra di confine contesa da secoli tra Francia e Germania, ora in guerra, la cui popolazione, un misto di francesi e tedeschi, cattolici romani e protestanti, convive e collabora secondo i precetti di una morale contadina. Es war ein typischer Elsässer. Schweitzer era un tipico alsaziano. Noi ci sentiamo oppressi sia quando siamo sotto i tedeschi che sotto i francesi. Ma in realtà gli alsaziani possiedono in sé ambedue le culture. In quanto cittadini tedeschi, gli Schweitzer vengono tenuti sotto controllo dalle autorità locali. Sono formalmente prigionieri nella colonia francese del Gabon. La Prima Guerra Mondiale è quella alla quale gli africani partecipano in prima persona. Soldati africani o lavoratori africani partecipano alla Prima Guerra Mondiale in maniera diretta. Una scorta di indigeni in divisa francese controlla i movimenti di Schweitzer e piantona stabilmente il suo alloggio a Lambaréné. Le autorità francesi mi hanno vietato di esercitare e hanno posto i sigilli governativi al mio ambulatorio. Due neri ci seguono come un'ombra nei nostri spostamenti, che pure sono limitati. Sostengono di essere i padroni dell'Oganga bianco. Gli africani vedono che gli europei sono altrettanto fragili e mortali come loro stessi. Gli africani per la prima volta vedono gli europei non solo feriti o morti, ma vedono degli europei trattati in maniera gerarchicamente identificabile da altri europei. Era lo storico Carlo Carbone. Schweitzer scrive per giornate intere, scrive lettere agli amici in Europa affinché lo aiutino ad uscire da quella situazione, ma scrive anche la sua ossessione per il pensiero della guerra, della morte, della distruzione che incombe sul vecchio continente. Per mesi restai in agitazione continua. Stavo come di fronte a un portone di ferro che non voleva cedere. In quelle circostanze dovetti intraprendere un lungo viaggio sul fiume Ogowe. Alla sera del terzo giorno, quando al tramonto navigammo in mezzo a un branco di cavalli del Nilo, si parò di fronte a me in attesa e non cercata l'espressione «rispetto per la vita». Il portone di ferro aveva ceduto. Dall'abisso in cui siamo caduti, dobbiamo porre la nostra fede nel futuro dell'umanità che noi vogliamo salvare dalla distruzione, come l'ideale più prezioso da trasmettere ai tempi e alle generazioni che verranno. Che la pace di Dio sostenga il nostro coraggio. La guerra dura da 3 anni e sembra non finire mai. Agosto 1917, gli Schweitzer vengono prelevati dai loro alloggi, imbarcati per farli rientrare a Parigi. Arrivati in Francia, gli vengono rinchiusi in un campo di concentramento sui Pirenei, poi in Provenza. A risentire della prigionia è soprattutto Hélène, che versa in pessime condizioni di salute. Schweitzer è infaticabile, abbozza un libro sul destino della civiltà occidentale. Di getto, esasperato, elabora il progetto di un'etica universale fondata sul rispetto della vita. Mix 24. La storia. La guerra ha ucciso milioni di uomini, inflitto sofferenze a milioni di innocenti. Per quale ragione? Non c'è rimedio che il rispetto per la vita. E adesso dobbiamo arrivare. Rieccoci a Mix 24. Erano le parole di Albert Schweitzer all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Nel 1919, con il Trattato di Versailles, l'Alsazia e la Lorena vengono annesse alla Francia. Albert Schweitzer e sua moglie Hélène possono tornare a casa. Adesso sono diventati cittadini francesi. D'improvviso tutto il mondo sembra accorgersi di lui, ma per Albert il prezzo da pagare è molto alto. I viaggi, i concerti, le conferenze lo tengono lontano dalla moglie Hélène e Rena, sua figlia, nata poco dopo la fine della guerra. Ce lo ricorda proprio lei, Rena. Lo vedevamo davvero poco, ma una bambina si abitua facilmente alle circostanze della vita. Mentre per mia madre era una situazione molto, molto difficile. Nel 1922 Hélène Schweitzer contrae la tubercolosi. Albert fa costruire una casa nel cuore della foresta nera, ma non vi trascorre che poco tempo. Ancora sua figlia Rena. Purtroppo molto poco. Teneva concerti d'organo in continuazione e conferenze sulle sue opere letterarie. Nel 1921 Schweitzer ha pubblicato il libro Ai margini della foresta vergine, un bestseller tradotto in 7 lingue, che racconta la sua esperienza in Africa. 2 anni più tardi seguono Il declino della civiltà occidentale e Cultura ed etica. Per l'uomo veramente etico, ogni vita è sacra, inclusa quella che dal punto di vista umano sembra inferiore. Si fa lentamente strada la nozione che l'etica non riguarda solamente l'umanità, ma anche la specie animale. Ogni vita spirituale si trova dentro la vita naturale. Il rispetto per la vita vale dunque per ambedue. Ma dopo la Prima Guerra Mondiale, il mondo non è più lo stesso. Sono gli anni della pace armata. In Russia, i bolscevichi di Lenin hanno rovesciato gli zar. In Italia, Benito Mussolini ha conquistato il potere con regolari elezioni. La Germania è sull'orlo della rivoluzione sociale. Deluso dalla civiltà europea, Schweitzer vuole tornare a Lambaretto. Chi sono i selvaggi? Gli uomini che vivono nella foresta e uccidono per necessità? O quelli che hanno organizzato un massacro di proporzioni apocalittiche e perfettamente inutile al centro dell'Europa? L'Europa, insomma, sembra sorda al richiamo di Schweitzer. Schweitzer capisce che è l'ora di tornare in Africa. Nel novembre del 1924 si mette al lavoro per preparare il suo secondo viaggio verso Lambaréné, anche se ormai sua moglie non è più in grado di seguirlo. Ma a Lambaréné Schweitzer ha una brutta sorpresa. Negli anni della sua assenza l'ospedale è andato in rovina. Schweitzer allora deve ricominciare tutto da capo, ma questa volta decide di fare tutto a modo suo. Schweitzer si rende autonomo dalla missione francese, compra a sue spese un appezzamento di terra e inizia a costruire il suo nuovo ospedale. La forza della natura equatoriale ha avuto la meglio sul vecchio ambulatorio di Schweitzer. Dall'Europa però cominciano ad arrivare aiuti e rinforzi. Nel giro di pochi mesi a Lambaréné lo raggiungono il medico svizzero Walter Lauterberg e un'infermiera, l'alsaziana Mathilde Kottmann, che diventerà il suo braccio destro. I collaboratori, i medici e le infermiere danno il cambio a Schweitzer nel giro di visite dei pazienti. Lui intanto si occupa della costruzione delle baracche in lamiera. A Lambaréné viene inaugurato un lebbrosario. Da subito si formarono 3 insediamenti nei dintorni dell'ospedale. I malati arrivavano in massa perché avevano sentito dello ganga bianco. Il dottor Schweitzer, che non aveva alloggi a sufficienza, li fece sistemare in capanne di bambù che questi si costruirono da soli in 3 diversi posti. Avete sentito l'infermiera di Lambaréné, Emmy Fulleman. Schweitzer organizza e supervisiona il lavoro degli indigeni seguendoli nella costruzione del nuovo ospedale. Ai pazienti e alle famiglie chiede di contribuire alle spese con il loro lavoro. Gli ospiti dell'ospedale, cui si richiedono prestazioni lavorative, sono in primo luogo gli uomini e le donne che si trovano qui come accompagnatori di un ammalato. Vengono impiegati nell'amministrazione dell'ospedale, nelle piantagioni, nell'orto e nei lavori di costruzione. Ogni giorno Schweitzer e i suoi indigeni strappano alla giungla qualche metro quadrato. In poco tempo il nuovo ospedale diventa autosufficiente. Lambaréné è una comunità villaggio fondata sul rispetto per la vita. Così Walter Munz, collaboratore di Schweitzer. Lui ha detto: l'ospedale di Lambaréné è l'improvvisazione, la mia improvvisazione del rispetto della vita. Tra le note di Johann Sebastian Bach, Schweitzer trova un rifugio da quella mole di lavoro immensa. Alla sera tornava in camera e suonava il pianoforte. Il clima della giungla, troppo caldo e umido, non gli permetteva di avere un organo, ma i suoi amici di Parigi gli avevano spedito in regalo un pianoforte con i tasti ricoperti di zinco e modificato con i pedali di un organo. È la Sinfonia Africana, la colonna sonora della vita di Schweitzer in Africa. Quella per la musica del resto è una passione che Schweitzer coltiva sin da quando era bambino in Alsazia. Sono nato il 14 gennaio del 1875 a Kaisersberg, una cittadina dell'Alsazia. Albert ha imparato a suonare l'organo all'ombra delle chiese alsaziane e dei sermoni domenicali del padre, un predicatore come lui. Le chiese alsaziane sono a un tempo protestanti e cattoliche. Mi sembrava una cosa meravigliosa che cattolici e protestanti celebrassero il culto nella stessa chiesa. A Parigi ha ricevuto gli insegnamenti del maestro Charles-Marie Vidor, che gli ha trasmesso la passione per Bach e lo ha spinto a redigere un'opera sul grande compositore tedesco che, pubblicata nel 1905, è tuttora considerata una rivoluzione della letteratura musicale. Al Bach, custode del Graal della musica pura, contrappongo nel mio libro il Bach, poeta e pittore in musica. Tutto ciò che sta nelle parole del testo, sia il sensibile sia il figurativo, egli lo rende nel materiale sonoro. La musica è la carta che Schweitzer intende giocare per cercare altri fondi per l'ospedale. È ritornato in Europa molte volte pure. Allora ha dovuto cercare il denaro. Il suo ospedale non era tanto famoso come poi. E lui ha cercato questo denaro suonando l'organo. Schweitzer incide il primo disco che diventa subito un successo. Lui intanto inizia un giro di conferenze tra la Germania e la Francia. Nel 1928 Schweitzer è insignito del premio Goethe per la sua capacità di esprimere l'anima della cultura tedesca. Ce ne parla Daniel Kern, maestro d'organo a Strasburgo. Tutto quello che faceva in Africa con il suo ospedale, i concerti attraverso l'Europa per raccogliere fondi, era una cosa assolutamente nuova per il suo tempo. Si può dire che Schweitzer già a quell'epoca rappresentasse un modello. Ma la Germania è ormai avviata verso il baratro. L'economia è in crisi. I tedeschi non sono mai stati così poveri e un piccolo ma agguerrito partito, guidato da un giovane demagogo austriaco, ha iniziato ad affermarsi sulla scena politica. Quando nel 1932 Schweitzer è tornato in Europa per tenere una conferenza su Goethe, in Germania c'erano già diversi problemi. Le strade tedesche sono ormai territorio delle camicie brune. La violenza è una pratica diffusa e quotidiana contro gli ebrei e contro chiunque si opponga al partito nazista. Schweitzer trasferisce sua moglie e sua figlia di origine ebraica in Svizzera, a Losanna. Poi si imbarca ancora una volta per Lambaréné. Ormai il loro rapporto è fatto di istanti rubati all'attività di Albert e di una fitta corrispondenza. Da piccola tutto quello che sapevo di lui era che stava in Africa e che aiutava i poveri negretti ammalati. Qualche volta mi scriveva anche sui bambini del luogo e del fatto che qualcuno avesse dato il mio nome a un neonato. Io mi sentivo molto orgogliosa perché anche in Africa c'era una piccola rena. A Lambaréné, Schweitzer torna a dedicarsi anima e corpo al suo ospedale. Nei mesi che vi trascorre, impartisce ordini, emana direttive, scrive incessantemente, ma opera sempre di meno. La sua preoccupazione era soprattutto di fare la corrispondenza. Schweitzer scrive decine di lettere al giorno, spesso la notte, una media di 2000 l'anno. Chiede aiuti economici agli amici che dall'Europa sostengono il suo ospedale, si preoccupa della salute della moglie. Discute di musica con organisti di tutto il mondo, mantiene stretti contatti con l'ambiente accademico europeo. Parigi, Oslo, Oxford ed Edimburgo si contendono le sue conferenze sul rispetto per la vita. Nel 1935 la Columbia Records incide varie esecuzioni di Schweitzer che diventano subito un trionfo commerciale. Pubblica annunci sul giornale per cercare collaboratori, organizza centri di raccolta di materiale medico in tutti quei paesi in cui ormai è una celebrità. Poi riprende il suo viaggio verso l'Africa. Anche Joseph Goebbels, ministro della propaganda di Hitler, si accorge di quell'alsaziano amato dalla stampa. Schweitzer viene invitato in visita al Terzo Reich. La lettera di invito a firma di Goebbels porta la formula di rito della diplomazia nazista. Schweitzer declina l'invito. Non posso accettare. Al momento sono troppo occupato con il mio ospedale e non posso allontanarmi. Con un saluto africano, Albert Schweitzer, medico nella giungla. Con un saluto africano, Schweitzer così risponde a Goebbels, ministro della propaganda nazista. Nel 1939 Loganga Bianco torna in Europa per un nuovo giro di approvvigionamenti di materiali per il suo ospedale. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24. Albert Schweitzer, le Grand Docteur, ha capito che la catastrofe della guerra è ormai imminente. Gabon, ottobre 1940. La seconda guerra mondiale arriva anche nella colonia francese. A contrapporsi nella giungla sono le truppe del maresciallo Pétain, fedele alleato di Hitler, e quelle del generale de Gaulle. Per cercare di proteggerle dai proiettili, Schweitzer fa ricoprire le baracche dell'ospedale con pezzi di lamiera. L'ospedale è di nuovo tra due fuochi. I feriti dell'ultima battaglia si contano a decine. Molti tra gli indigeni che ho aiutato a nascere sono costretti a imbracciare un fucile e a morire per una patria che non conoscono. Ancora una volta l'Africa divora i suoi figli. Per i nativi appare una guerra senza senso e invece anche per loro dall'esito di quella guerra dipenderà il futuro. A quegli indigeni che indossano la divisa francese e combattono il nazismo, infatti, De Gaulle ha promesso l'indipendenza. Ma Schweitzer non condivide l'anelito di libertà dei neri. Nessuna delle iniquità commesse contro gli indigeni deve oggi venir nascosta o negata. Ma voler dare a questa gente primitiva o semi-primitiva delle nostre colonie un'indipendenza che finirebbe inevitabilmente per renderla schiava dei suoi simili non è il modo migliore per riparare ai nostri torti. L'unica linea di condotta possibile per noi è esercitare a favore degli indigeni il potere che effettivamente possediamo e fornire così una giustificazione morale adesso. Non mancano le critiche. Nel mondo la stampa è divisa. Qualcuno in Svizzera vede l'arroganza di un uomo che ha voluto creare un mondo ideale basato sul pregiudizio e il razzismo senza curarsi dei progressi fatti dalla medicina. E in effetti, nonostante qualche piccola miglioria e la costruzione di una piccola pista di atterraggio, nell'ospedale di Svizzera il tempo sembra essersi fermato. L'igiene è carente, gli animali vivono nelle stesse baracche dei pazienti, ma Svizzera sembra non curarsi delle critiche, come dimostra questa intervista di Zavoli al suo collaboratore, il dottor Walter Munz. Molte critiche hanno un fondamento, non posso non convenirne, ma occorre mettersi d'accordo su queste critiche. Io ho visto spesso delle persone venire a Lambaréné, fermarsi un paio di giorni e scattare qualche fotografia e raccontare poi nei loro paesi che Schweitzer perpetua in Africa una solitaria avventura romantica. Invece bisogna stare qui, rischiare di ammalarsi, rinunciare alla vita civile, bisogna rompere con il mondo per capire che non è tutto vero nel bene e nel male, quello che sembra evidente. Insomma, un apostolo dei poveri o un folle arrogante, un missionario laico o un irriducibile colonialista? Chi è davvero, insomma, Albert Schweitzer? Il mondo intero si interroga su questa figura inconsueta e scomoda, un anticonformista sordo alle critiche. Eppure a molti quel piccolo ospedale sperduto nella foresta africana sembra l'unica speranza per un futuro migliore. Allorché Russia e America disegnano il nuovo ordine mondiale, gli imperi coloniali delle potenze europee cominciano a sgretolarsi. Solo l'ospedale di Schweitzer sembra essere sopravvissuto alla catastrofe. Per molti in Europa, quel medico alsaziano dall'aspetto trasandato, sepolto nella foresta del Gabon, rappresenta una speranza per un futuro diverso. Schweitzer è l'anti-Hitler, Lambaréné una nuova Sion, la terra promessa dove espiare la colpa di una civiltà decadente. Nei 10 anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a Lambaréné arrivano nuovi collaboratori. È una nuova generazione, cresciuta negli anni di guerra, attirata dalla leggenda dell'Oganga Bianco. 3 anni dopo la fine del conflitto, Schweitzer ha rimesso piede in Europa. Cominciano a piovergli addosso riconoscimenti ed onorificenze. Nel 1952 riceve la notizia di essere stato insignito del premio Nobel per la pace. Con i $30,000 del premio Nobel, Schweitzer costruisce un nuovo lebbrosario a Lambaréné. Ormai l'Oganga Bianco è una celebrità e Lambaréné diventa una meta di giornalisti e visitatori di tutto il mondo. Ma nella vita di Schweitzer c'è un'ombra. Pochi mesi prima, il 1 giugno del 1957, Hélène si è spenta in Svizzera. Come ultimo desiderio ha chiesto che le sue spoglie fossero portate in Gabon per stare vicino all'uomo cui è rimasta devota per tutta la vita. Ce ne parla la figlia Reina. Molte persone credono che mio padre abbia vissuto una vita piena di sacrifici. Era una vita dura, è vero, ma era esattamente quella che lui voleva fare. Mentre per mia madre la vita fu assolutamente diversa da come l'aveva immaginata. I sacrifici compiuti furono unicamente i suoi. Alla fine degli anni 50 Lambaréné Schweitzer ha una nuova preoccupazione. Il mondo vive sotto la minaccia della bomba atomica. Sia Einstein che von Braun, i due scienziati responsabili del progetto nucleare americano, hanno scritto a Schweitzer avvisandolo che Russia e America sono impegnate nel riarmo atomico. È il 23 aprile 1957. Radio Oslo trasmette un appello di Schweitzer a tutta l'umanità. Oggi siamo di fronte a due scelte. Una consiste nel portare avanti la follia della corsa agli armamenti nucleari e il conseguente pericolo di una guerra atomica. L'altra consiste nella rinuncia alle armi nucleari, nella speranza che l'America e l'Unione Sovietica e i loro alleati trovino un accordo per vivere in pace e coesistere. Una vita va spesa in ogni caso e io vorrei che la mia fosse stata spesa prima di tutto. E poi, possibilmente, spesa bene. Dite pure delle mie manchevolezze. Se alla fine non diremo cose che a qualcuno dispiaceranno, non diremo mai per intero la verità. Gabriele Risica, cardiologo a Venezia, una volta andato in pensione ha deciso di lavorare per Emergency in Africa. Come mai ha fatto questa scelta? Ma perché mi era rimasta sempre nel cuore questa cosa da quando io poco dopo la laurea, quando ero giovane medico, ero andato un anno in Messico in realtà a studiare, perché ero in un istituto famoso messicano. Quindi diceva già da subito dopo la laurea? Sì, mi era rimasta questa voglia di tornare nei paesi del terzo mondo. In realtà come cardiologo le possibilità erano minime o nulle. Quando ho visto che Emergency aveva il programma di aprire il centro di cardiochirurgia, ho subito dato la mia disponibilità e ho fatto la prima missione in 6 mesi quando abbiamo aperto l'ospedale di cardiochirurgia a Khartoum, e da allora mi è rimasta la voglia di lavorare con loro, per cui appena ho potuto sono andato in pensione per lavorare a tempo pieno per Emergency. Gabriele Risica, mi dà un po' di numeri, cioè quanti pazienti riuscite a curare, quanti hanno bisogno di cure in Africa, in Sudan in questo caso? In Sudan pressoché infiniti, nel senso che è l'unico ospedale cardiochirurgico gratuito per tutto il continente africano. Noi calcoliamo che il nostro hinterland sia superiore ai 300 milioni di abitanti, che vuol dire l'equivalente degli Stati Uniti d'America o di tutta l'Europa occidentale. Con un solo centro di cardiochirurgia, pensiamo quanti centri di cardiochirurgia abbiamo noi, si capisce quanto sia il bisogno e quanto poco noi riusciamo a rispondere al bisogno, quanto vorremmo fare di più. Quali sono le principali malattie? Se parliamo del Sudan, ovviamente sono la malattia reumatica. Il 70% circa dei pazienti che noi operiamo sono pazienti affetti da malattia reumatica, che peraltro è una malattia della povertà, è una malattia assolutamente prevenibile. Nei nostri paesi è praticamente scomparsa già prima dell'arrivo della penicillina. L'incidenza di cardiopatia reumatica nei paesi occidentali era crollata grazie allo sviluppo, grazie al miglioramento delle condizioni di vita, quindi è chiaramente una malattia della povertà. Abbiamo raccontato che Albert Schweitzer aveva una sua idea di Africa. Lei ne ha una sua da medico? Di cosa ha bisogno l'Africa? L'Africa ha bisogno di quello di cui abbiamo bisogno noi, niente di diverso, nel senso che quello che noi cerchiamo di fare è di portare il tipo e la qualità delle cure che noi pretendiamo e che noi quasi sempre fortunatamente abbiamo nei nostri paesi. La situazione della sanità non è sostanzialmente diversa, anche se ci sono ancora alcune patologie che sono prevalenti e che magari noi non vediamo più, ma sostanzialmente il bisogno è quello di strutture sanitarie che funzionano, di medici preparati, di infermieri preparati e quindi di servizi sanitari gratuiti, perché purtroppo anche questo è gravissimo, la stragrande maggioranza dei servizi sono servizi a pagamento e quindi non avvicinabili per la maggior parte della popolazione di questi paesi, che hanno un reddito assolutamente insufficiente per coprire le spese sanitarie. Dalla storia che abbiamo raccontato emerge un attaccamento, quasi l'ossessione di Schweitzer verso i malati africani. Anche a lei è capitato lo stesso dopo essere stato in Sudan? Assolutamente sì, forse perché? L'aspetto perché uno degli aspetti fondamentali è la loro capacità di accettazione della malattia, della morte, che per noi è un insegnamento enorme. Nei nostri paesi ormai la morte è sempre colpa di qualcuno, o la malattia è sempre colpa di qualcuno, ci si inveisce contro, là si accetta in maniera totale, ma in maniera anche molto bella, direi, con una crescita anche sulla malattia, e lo stesso vale anche per la morte, e spesso si tratta nei nostri ospedali di malattie e morte di bambini e quindi ancora più drammatiche. Gabriele Risica, dove trova il coraggio di fare tutto ciò? Ma più che il coraggio è, direi, la passione. Non credo che ci voglia un particolare coraggio, è proprio la passione sia per il mio lavoro che appunto per fare il lavoro in una certa maniera. Grazie.